Prima ancora di giurarmi che non era vero, Albertin manifestò, come ogni persona a cui si sia rivelato che si parla di lei in questo modo, collera, dispiacere e nei confronti dell'ignoto calunniatore la curiosità rabbiosa di sapere chi fosse e il desiderio di essere messa a confronto con lui per poterlo confondere. Mi assicurò tuttavia che almeno nei miei confronti non era adirata. Se fosse stato vero, ve l'avrei confessato. Ma André e io proviamo tutte e due lo stesso orrore per queste cose. Non siamo certo arrivate alla nostra età senza vedere donne coi capelli corti, i modi maschili e le abitudini di cui parlate, e niente ci fa più ribrezzo. Albertin non mi dava che la sua parola, perentoria e senza prove. Ma era proprio questo che più poteva calmarmi, giacché la gelosia appartiene alla famiglia di quei dubbi morbosi che l'energia di un'affermazione vale a fugare molto più della sua verosimiglianza. D'altronde, è tipico dell'amore renderci al tempo stesso più diffidenti e più creduli, farci sospettare di colei che amiamo più in fretta che di chiunque altra e prestare più facilmente fede ai suoi dinieghi. Bisogna amare per curarsi del fatto che non tutte le donne sono oneste, vale a dire per accorgersene. E bisogna amare anche per augurarsi, cioè per assicurarsi, che ve ne siano. È umano cercare il dolore e desiderare poi di liberarsene al più presto. Le affermazioni capaci di riuscirvi ci sembrano facilmente vere. Non si sta a sottilizzare troppo su un calmante che agisce. E poi, per quanto multiforme, l'essere amato è comunque in grado di presentarci due personalità essenziali, a seconda che ci appaia nostro oppure impegnato a tendere i suoi desideri altrove. La prima di tali personalità possiede il particolare potere che ci impedisce di credere alla realtà della seconda, il segreto specifico per placare le sofferenze provocate da quest'ultima. L'essere amato è, volta a volta, il male e il rimedio che sospende e aggrava il male. Probabilmente io mi ero da molto tempo, grazie al potere esercitato sulla mia fantasia e sulla mia facoltà di commozione dall'esempio di Swann, preparato a credere vero ciò che temevo in luogo di ciò che avrei voluto. Così, la dolcezza provocata dalle affermazioni di Albertin fu, per un momento, sul punto di essere vanificata dal ricordo della storia di Odette. Ma poi mi dissi che se era giusto tenere conto del peggio, non solo quando, per capire le sofferenze di Swann, m'ero sforzato di mettermi al suo posto, ma anche adesso, che si trattava di me stesso, cercando la verità come se si fosse trattato d'un altro, non bisognava tuttavia che, mosso dalla crudeltà nei miei confronti, io facessi come il soldato che sceglie, anziché la postazione dove può essere più utile, quella dove è più esposto, e cadessi nell'errore di ritenere una supposizione più vera delle altre per il solo fatto che era la più dolorosa. Non c'era forse un abisso fra Albertin, fanciulla di buona famiglia borghese, e Odette, cocotte, prostituita dalla madre sin dall'infanzia? Non c'era paragone possibile fra la parola dell'una e quella dell'altra. E poi, rispetto a Odette con Swann, Albertin non aveva certo lo stesso interesse a mentirmi. Ancora, a Swann, Odette aveva confessato ciò che Albertin invece aveva appena negato. Avrei dunque commesso un errore di ragionamento, non meno grave, anche se inverso, di quello che avrebbe potuto spingermi verso una determinata ipotesi perché meno dolorosa delle altre, se non avessi tenuto conto delle differenze sostanziali fra le due situazioni, ricostruendo la vita reale della mia amica unicamente sulla base di ciò che avevo saputo della vita di Odette. Avevo di fronte una nuova Albertin, già intravista parecchie volte, è vero, verso la fine del mio primo soggiorno a Balbec, schietta, buona, un Albertin che, per affetto verso di me, mi aveva perdonato i miei sospetti e si sforzava di dissiparli. Mi fece sedere accanto a lei, sul mio letto. La ringraziai di quanto m'aveva detto, assicurandole che la nostra riconciliazione era cosa fatta e che non l'avrei mai più trattata con durezza. Aggiunsi che, in ogni caso, Avrebbe dovuto tornare a casa per il pranzo. Mi chiese se non stavo bene così, e attirando a sé la mia testa per una carezza che non m'aveva mai fatta prima e di cui ero debitore, forse al litigio appena finito, mi passò leggermente la lingua sulle labbra, cercando di dischiuderle. All'inizio le tenni serrate. «Che cattivo che siete», mi disse. Avrei dovuto partire quella sera senza rivederla mai più. Già intuivo che nell'amore non condiviso, vale a dire nell'amore, perché ci sono esseri per i quali non esiste amore condiviso, della felicità non si può assaporare niente più di quel simulacro che m'era stato offerto in uno di quei momenti irripetibili nei quali la bontà d'una donna, o il suo capriccio, o il caso, fanno aderire ai nostri desideri con una coincidenza perfetta le stesse parole, gli stessi gesti che se fossimo realmente amati. La cosa saggia sarebbe stata considerare con curiosità, possedere con delizia quella briciola di felicità, senza la quale sarei morto, senza nemmeno supporre ciò che essa può rappresentare per cuori meno difficili o più favoriti. Immaginare che facesse parte di una felicità profonda e durevole che mi si manifestava allora soltanto. E per evitare che l'indomani infliggesse una smentita alla finzione, non cercare d'ottenere un favore di più in aggiunta a quello che dovevo all'artificio d'un minuto eccezionale. Avrei dovuto lasciare Balbec, rinchiudermi nella mia solitudine, restarvi in armonia con le ultime vibrazioni della voce che, per un istante, ero riuscito a rendere innamorata e cui non avrei dovuto chiedere altro che di non rivolgersi mai più alle mie orecchie, per paura che una nuova parola, la quale ormai sarebbe stata inevitabilmente diversa, potesse ferire con una dissonanza il silenzio sensitivo dove, grazie a una sorta di pedale, la tonalità della gioia sarebbe sopravvissuta a lungo dentro di me. Tranquillizzato dalla spiegazione con Albertine, ricominciai a vivere di più accanto a mia madre. Amava parlarmi con dolcezza dei tempi in cui la nonna era più giovane, temendo che io mi facessi dei rimproveri per le amarezze con le quali avevo forse oscurato il declino di quella vita. La mamma risaliva volentieri a quando i miei primi studi avevano procurato alla nonna soddisfazioni di cui, prima d'ora, ero stato tenuto all'oscuro. Riparlavamo di Combray. La mamma mi disse che là, almeno, leggevo e che a Balbec, visto che non lavoravo, avrei dovuto fare lo stesso. Risposi che per immergermi, appunto, nei ricordi di Combray e dei graziosi piatti dipinti, mi sarebbe piaciuto rileggere Le mille e una notte. Come allora a Combray, quando mi regalava dei libri per la mia festa, mia madre fece arrivare di nascosto per farmi una sorpresa sia Le mille e una notte di Galan che Le mille e una notte di Mardrus. Ma data un'occhiata alle due traduzioni, avrebbe voluto che m'attenessi a quella di Galan, temendo tuttavia di influenzarmi per il rispetto che portava alla libertà intellettuale, per paura di intervenire in modo maldestro nella vita del mio pensiero e per l'idea che, essendo una donna, da una parte credeva di mancare dell'indispensabile competenza letteraria, dall'altra non s'arrogava il diritto di giudicare le letture d'un giovane uomo in base a ciò che urtava la sua sensibilità. Sfogliando certi racconti, era rimasta disgustata dalla licenziosità dell'argomento e dalla crudezza d'espressione. Ma soprattutto la mamma, che conservava religiosamente come reliquie non soltanto la spilla, la borsa, il cappotto, il volume di Madame de Sévigné, ma anche il modo di pensare e il linguaggio di sua madre, e si chiedeva in ogni occasione quale sarebbe stato il suo giudizio, non poteva dubitare che la nonna avrebbe condannato il libro di Mardrus. Ricordava che a Combray, mentre, in attesa di fare una passeggiata dalla parte di Méséglise, io leggevo Augustin Thierry, la nonna, contenta delle mie letture e delle mie passeggiate, si indignava tuttavia di veder chiamare Merowig colui il cui nome restava legato all'emistichio Puy Regne Merové e si rifiutava di dire Carolingi anziché Carlovingi, cui restava fedele. Inoltre le avevo raccontato quel che pensava la nonna dei nomi greci che Bloch, ispirandosi alle Conde de Lille, affibbiava gli dei d'Omero, giungendo sino a farsi, per le cose più semplici, un dovere religioso, nel quale credeva consistesse il talento letterario, da adottare un'ortografia greca. Per esempio, dovendo dire in una lettera che il vino che si beveva a casa sua era un vero nettare, scriveva un vero nectare, cosa che gli permetteva di sogghignare al nome di Lamartine. Ora, se un'Odissea da cui erano assenti i nomi di Ulisse e di Minerva, per lei non era più l'Odissea, che cosa avrebbe detto vedendo deformato sin dalla copertina il titolo delle sue Mille e una notte, non ritrovando più trascritti esattamente come lei era stata abituata da sempre a pronunciarli i nomi immortalmente familiari di Scheherazade e di Narzad, riconoscendo a malapena l'affascinante califfo e i potenti geni rispettivamente ribattezzati, se è lecito usare questa parola per dei racconti musulmani, califat e genni. Ciononostante la mamma mi consegnò le due opere e io le promisi che le avrei lette nei giorni in cui mi fossi sentito troppo stanco per passeggiare. Tali giorni, d'altronde, non erano molto frequenti. Andavamo in banda, come una volta, Albertine, le sue amiche e io, a fare merenda sulla scogliera o alla fattoria Maria Antoinette. Certe volte però Albertine mi procurava un grande piacere, mi diceva: «Oggi voglio stare un po' sola con voi. Sarà più carino essere noi due e basta». Sosteneva allora che aveva da fare, che del resto non aveva da render conto a nessuno, e perché le altre, se fossero andate comunque a passeggiare e fare merenda senza di noi, non potessero trovarci, andavamo tutti soli, come due amanti, a Bagatelle o alla Croix d'Olan, mentre la banda, che non avrebbe mai pensato di cercarci lì dove non andava mai, indugiava la fattoria nella speranza di vederci arrivare. Ricordo il caldo di quei giorni, quando dalla fronte dei garzoni di fattoria che lavoravano al sole cadeva una goccia di sudore verticale, regolare, intermittente, come la goccia d'acqua d'un serbatoio, alternandosi col tonfo del frutto maturo che si staccava dall'albero nel campo vicino. Sono rimasti sino ad oggi quei giorni, con il mistero d'una donna nascosta, la parte più consistente di qualsiasi amore mi si presenti nella vita. Una donna di cui sento parlare e alla quale non penserei nemmeno, mando all'aria tutti gli appuntamenti della settimana per conoscerla. Se è una settimana di giornate come quelle e se devo incontrarla in una fattoria isolata. Non ignoro certo che questo genere di tempo ed appuntamento non appartengono a lei, e non di meno è l'esca, pure così ben conosciuta, dalla quale mi lascio attrarre e che basta ad agganciarmi. So bene che in una città col freddo, quella donna, avrei potuto desiderarla, ma senza accompagnamento di sensibilità romanzesca, senza innamorarmi. Non per questo l'amore è meno forte una volta che, grazie alle circostanze, m'abbia afferrato. È semplicemente più malinconico, come succede nella vita ai sentimenti che proviamo per le persone a mano che ci rendiamo conto del ruolo sempre più trascurabile che esse vi svolgono e sentiamo come il nuovo amore, che vorremmo così durevole, sia destinato, accorciandosi nella misura in cui la nostra stessa vita s'accorcia, ad essere l'ultimo.